Meglio cautelarsi. Una decina di giorni fa, Elliot Spitzer, governatore dello stato di New York, ammetteva davanti a milioni di americani non solo di aver tradito la moglie, ma di averlo fatto identificato come cliente numero 9 dell'Emperor's Club VIP, agenzia con una cinquantina di squillo. E che ti fa il suo successore David Peterson a 24 ore dall'insediamento? Insieme alla moglie rilascia un'intervista ad un tabloid. Ammettono di essersi traditi a vicenda. Lui addirittura per 2 anni con la stessa donna, incontrandola in un alberghetto niente di che a Broadway. Tutto passato e le voci di un figlio segreto smentite. Ma la storia di sesso e politica che forse più appassiona gli americani in queste ore è un'altra. Mollalo! Il triangolo no! Non l'avevo! D'accordo ci troverò. La geometria non è un reato. Nemmeno gli elettori del New Jersey avevano considerato il triangolo. Nel 2004 Jim McGreevy si dimise da governatore dello Stato. Sposato, aveva ammesso di essere gay e di aver assunto come consigliere speciale il suo amante. In questi giorni, chiamata a commentare le vicende di Spitzer, la moglie di McGreevy aveva detto: «Come lei non ho mai sospettato nulla». Falso, a quanto pare. L'ex autista dei due, Teddy Pedersen, si confessa al New York Post. Con l'ex governatore e con la moglie c'era un ménage à trois. Negli alberghi, racconta, dormivamo sempre in 3 in una camera. Mancano 7 mesi e mezzo alle presidenziali americane. Avremo di che divertirci. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore.